siamo stati senza fiatare. Seguire il tuo profilo con un dito mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io, a piedi nudi io, sfioravo i tuoi capelli io, e fermarci a giocare con una formica, e puoi chiudere gli occhi, non pensare più, senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Puoi correre felici a perdifiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, in un sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io, restavo zitto io, per non sciupare tutto io, e baciarti le labbra con un filo d'erba, e scoprirti più bella coi capelli in su, e mi piaci di più, e mi piaci di più, forse sei l'amore. Soltanto tu e sempre tu che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. Ed un bacio, un altro ancora, da non poterti dire. Che tu, pallida e dolce tu, eri già tutto quanto tu. Ed io, non ci credevo io, e ti tenevo stretta io. Coi vestiti inzuppati, stare lì a scherzare. Puoi fermarci stupiti, io vorrei, cioè, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dammi un po' d'amore.